aria che io non avevo visto nessuno, avevo visto a te che facevi le fotografie e poi boh. Prima i geniali, per poco prendevano anche un po' di...